Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia. Come immagino sentiate dal rumore di sottofondo, trasmettiamo oggi dal Vinitaly. Radio 24 è presente con numerosi programmi. Ieri Gigi Garanzini, lunedì tornerà sempre Garanzini in diretta con A Tempo di Sport, poi altri programmi della radio. Oggi Focus Economia conclude la sua settimana al Vinitaly. Devo dire che insomma c'è di peggio nella vita. E parleremo chiaramente del settore del vino, perché tra tutti i settori industriali che abbiamo affrontato, che abbiamo raccontato in questo diario della crisi di questi ultimi mesi, il settore del vino ha avuto dei numeri migliori delle attese, ma sono quelli del 2008. Molto timore tra i vari espositori e produttori per quelli che saranno poi i numeri del 2009, soprattutto non tanto del vino quando esce dalla cantina, ma del vero vino venduto, quelle che si chiamerebbero altrimenti scorte di magazzino. Detto ciò, la settimana borsistica si avvia a chiudere bene dopo il fortissimo rialzo di ieri. Oggi qualche correzione, qualche realizzo, come dicono in gergo i dotti della finanza, meno 1,2 a Parigi, invariata a Francoforte, meno 2,3 a Londra, è la più pesante oggi, mentre Milano è invariata sul MIBTER e guadagna qualcosa sull'S&P MIB, lo 0,5%. Non ci sono realizzi su Fiat, che invece continua a crescere, non fa il rialzo due cifre di ieri, però guadagna un altro 2,5% e si posiziona così a 6,75 euro. Incredibile il recupero che ha fatto il titolo del lingotto in queste ultime tre sedute. Bene Prismian, più 8,3, molto bene Unicredit, di Unicredit parleremo perché oggi ci sono novità anche sul consiglio. Pirelli più 5,7, Media 7 più 3,8, Geox più 3,7%, Buzzi Unicem più 3,3%, le CIR più 3,3%, Banco Popolare più 3,2% e ST Microelectronics più 2,5%. Bene anche Italcementi, Mondadori con rialzi superiori al 2%. Chi perde oggi? Soprattutto Eni perde il 3,3% ed Enel il 3,1%, Campari il 2,90, Snam il 2,5%, Popolare Milano il 2,2%, Luxottica il 2%, A2A meno 2%, come Atlantia l'1,6% lo perde Finmeccanica e l'1% lo cede Tenaris, mezzo punto percentuale di calo per l'Automatica. Questo è l'andamento del mercato. Cosa manca? Manca il rapporto di cambio. Allora lira magari, euro dollaro a 1,3423 e euro sulla sterlina a 90 pence. 349-238-6666 per i vostri sms. Vi assicuro che tutto lo studio di Radio 24 qui è ancora totalmente sobrio, quindi qualunque imprecisione è quella fisiologica del programma. Parleremo quindi di vino come settore dell'economia, ci mancherebbe, è uno dei settori principali, la principale voce nel nostro, nella parte agroalimentare, ed è anche un importantissimo passaporto per il Made in Italy in giro per il mondo. Prima però le notizie in breve. Petrolio in leggero calo a 52 dollari al barile, meno 1,2%, Euribor invariato all'1,48%. Dall'America è arrivato il dato sul numero di disoccupati, o meglio di posti di lavoro persi a marzo, 663.000, un po' di più rispetto alla stima degli analisti. Il tasso di disoccupazione sale all'8,5% in America, ai massimi da 25 anni, anche se in linea con le stime. Incredibile il dato di quanti disoccupati invece si siano creati in America dall'inizio della recessione, oltre 5 milioni di posti di lavoro che si sono persi dalla fine del 2007. e ripeto 5 milioni e 100 mila posti di lavoro, è l'emorragia di posti di lavoro peggiore dalla seconda guerra mondiale. E Rupert Murdoch, il numero uno di News Corp e quindi del gruppo che controlla anche Sky, oggi ha detto la situazione economica resta nel lungo termine molto pericolosa e sono pessimista. Vertice Ecofin al via Praga, la due giorni dei ministri finanziari europei. Devo dire che dopo il G20 di Londra l'Ecofin resta leggermente offuscato. E comunque vi saranno anche i governatori delle banche centrali dell'Unione Europea che dovranno fare un primo bilancio proprio sulle iniziative annunciate ieri. Ripeto, vedo già molti messaggi. Vedremo se sui paradisi fiscali, lo abbiamo detto anche ieri, arriverà veramente un giro di vite oppure no. Al di là del vertice Ecofin invece, la Svizzera oggi ha già disapprovato i criteri alla base della decisione dell'OCSE di inserire il nome della Svizzera nella lista grigia dei paradisi fiscali. La lista grigia è quella dei paesi che hanno accettato standard fiscali internazionali ma non li hanno ancora applicati o li applicano solo in parte. La lista nera invece è quella dei paesi che non li hanno nemmeno accettati, e per ora sono solo Costa Rica, Malesia, Filippine e Uruguay. Almunia, commissario europeo, dice a maggio andiamo verso una revisione a ribasso della crescita europea. In Italia, ne parleremo più avanti, le dichiarazioni fiscali del 2007, reddito medio a 18.320 euro lordi l'anno, ma soprattutto oltre 3 dichiarazioni dei redditi su 10, cioè più del 30% degli italiani dichiarano di guadagnare meno di 10.000 euro lordi l'anno. Siamo tutti pensionati, stando alle dichiarazioni dei redditi. Ricordo per inciso e senza nessuna demagogia che in Italia ci sono 65.000 imbarcazioni, barche sopra i 17 metri, e 200.000 auto nel 2007 sono state immatricolate di grande cilindrata. Come grande cilindrata. Ne parleremo più avanti, non c'è dubbio. Adesso però passiamo al vino, così non ci facciamo venire il sangue amaro, anzi di solito il sangue dovrebbe essere buono col vino. E allora l'industria italiana del vino, come è apparsa e come si sta muovendo a questo 43esimo Vinitaly. Rapidamente, 43esimo Vinitaly, parleremo anche dei numeri, perché incredibilmente questo Vinitaly vede aumentare i buyers esteri, italiani, le presenze. Prima di tutto, come sta andando il nostro vino? Produciamo quasi 47 milioni di ettolitri l'anno scorso, più 8%, siamo il primo produttore al mondo e la produzione italiana di vino rappresenta un quinto di quella mondiale e il 34% di quella europea, un giro d'affari da 8 miliardi di euro, di cui 3 miliardi e mezzo solo l'export. I problemi e le criticità però ci sono, come racconta questa scheda. Crisi economica, borse e banche in difficoltà. Tutti buoni motivi per ricorrere all'alcol per dimenticare. Ma al di là dell'uso poco salutare delle bevande alcoliche, anche nei periodi difficili non cala il favore degli italiani per il buon vino. Nel 2008 i consumi di vino a denominazione di origine sono cresciuti del 7%. Il vino sembra inoltre difendersi dalla crisi anche in borsa. Secondo il centro studi Mediobanca, nel 2008 il calo registrato dall'indice delle aziende vinicole quotate nel mondo ha sfiorato il 29%, contro la flessione vicina al 40% dei mercati internazionali. Nei primi due mesi del 2009, poi, l'indice vinicolo ha ceduto solo il 3,3% contro il 15,3% delle piazze mondiali. L'ubriacatura finanziaria, battuta dunque dall'economia reale legata al territorio, con l'industria vinicola come punta di diamante. Con 46,9 milioni di ettolitri prodotti l'anno scorso, più 5% sul 2007, l'Italia è diventata primo produttore al mondo, davanti alla Francia. Il primato non nasconde però le difficoltà del 2008, messe in luce dall'andamento dell'export. Se il valore delle vendite è salito del 2% a 3,6 miliardi, i volumi sono invece scesi del 7% a quasi 18 milioni di ettolitri. In particolare, meno 10% della quantità esportata nell'Unione Europea e in Germania, nostro primo mercato a volume. Vicino al 30% poi il calo in Francia e Austria. Segno meno anche verso gli Stati Uniti, nostro primo mercato per valore e terzo a volume. Nel 2008 abbiamo esportato il 2% di bottiglie in meno, con il valore sceso del 4% a 800 milioni. Boom invece nel Regno Unito. Per la prima volta l'export di vino italiano ha superato il 500 milioni di euro, mentre i pub, l'anno scorso, hanno spillato 2 milioni di birre in meno. Grandi soddisfazioni, infine, dai mercati emergenti. Più 50% di quantità venduta in Arabia Saudita, più 36% in Russia, più 29% a Hong Kong, porta d'accesso al mercato cinese. Questi dunque i numeri del vino, numeri però che, come ricordava la nostra scheda, riguardano, per motivi anche di affluenza dei dati, il 2008. Allora ne parliamo con oggi, ne parleremo con diversi esponenti del mondo vinicolo. Inizio con ringraziare Emilio Pedron, amministratore delegato del gruppo italiano Vini. Buonasera, dottor Pedron. Sì, grazie. Grazie anche a Piero Antinori, presidente della Marchese Antinori. Buonasera anche a lei. Buonasera. E grazie anche a Jacopo Biondisanti del Biondisanti. Buonasera anche a lei, Biondisanti. Buonasera. Dunque, Pedron, parto da lei perché quanto ha fatturato, voi siete il numero uno in Italia, 288 milioni di euro, 74 milioni di bottiglie se non ricordo male, di cui quasi il 70% destinate alle esportazioni. Si diceva bene il fatturato l'anno scorso, in calo invece il volume. Quanto sono con lo specchietto retrovisore questi dati? Cioè quanto riguardano un 2008 che sappiamo ha avuto due facce e quanto invece il 2009 a vostro avviso potrebbe essere un anno più difficile? Sì, i dati spesso che noi abbiamo a disposizione sono quelli di partenza dalle nostre cantine e non quello di vino consumato sui vari mercati. Per cui sempre, ricordo benissimo il Vinitaly dello scorso anno in cui abbiamo gridato al successo, alla vittoria, invece era già cominciato il declino dei prodotti. In effetti sui mercati esteri i problemi si sono visti già dal settembre, ottobre dell'anno scorso, soprattutto sull'area inglese, dove la crisi è stata più forte, l'impatto della crisi. L'area dollaro ha penalizzato i vini di fascia medio-alta, forse anche non tanto per il consumo effettivo quanto proprio per il bisogno degli importatori e distributori di abbassare il loro magazzino, il loro stock, che non coincide con vino consumato in meno ma coincide con spedizioni per noi in meno. Ecco, registrate delle pressioni sul prezzo, cioè richieste dei distributori e comunque di chi commercializza i vostri vini all'estero, mi riferisco? Ma io credo che non sia tanto una pressione quanto un bisogno di rivolgersi, un'attenzione che il consumatore rivolge a delle fasce un pochino più basse di prima. Questo dipende, non è una pressione della filiera, quanto un bisogno del consumatore di avere a disposizione dei vini che costino, che siano di un gradino più basso di quello di prima. C'è anche uno spostamento di consumi, mi pare un po' generalizzato, dal ristorante a casa. Allora, ristorante un po' meno, a casa un po' di più e un po' meglio, per cui insomma una cosa compensa l'altra. Ecco, visto che voi avete vini di diversa gamma, diciamo da una fascia medio-bassa a una fascia anche più alta, dove registrate il maggior numero di pressioni, chiamiamole così, quindi di sofferenze, si direbbe in linguaggio bancario? Diciamo che i ritardi li abbiamo più che pressioni, perché parlerei di ritardi nelle nostre spedizioni, sono vini che costano da sopra i 15 euro, sopra i 12-15 euro, che costano lì, c'è un certo ritardo nelle nostre spedizioni. Quindi vini che poi vanno in carta a 40? Che vanno in carta a 40 oppure vanno sullo scaffale ai 18, ai 15-18 euro, mentre direi che le cose sono un pochino rallentate, ma non più di tanto, per tutto quello che costa meno di 10 dollari negli Stati Uniti e di 10 euro nell'area Europa. Un'ultima domanda che poi varrà anche per gli altri ospiti, per quello che riguarda le aree di destinazione. Sappiamo che l'area anglosassone, l'area dollaro, ma anche l'area sterlina ha molto sofferto ed è là dove si registrano le maggiori criticità. Avete invece avuto qualche effetto di compensazione dall'area petrodollaro, ossia l'area OPEC, in particolar modo Arabia Saudita e paesi del Golfo, e dal mercato asiatico, o ha frenato anche quello? Ma qualcosa c'è, però non più di tanto. Invece piuttosto c'è qualche difficoltà sui paesi dell'est Europa che si erano avviati molto bene, parlo della Russia in particolare, dove invece la crisi economica ha sparagliato delle aziende importatrici e dei distributori, quindi direi che l'effetto è negativo anche per quei mercati. Quindi i mercati nuovi già l'anno scorso stentavano a compensare o fare qualcosa di buono, quest'anno hanno avuto un freno anche loro. Ecco, se lei dovesse fare una previsione per il gruppo italiano vini su come chiudere, diciamo, il 2009, che segno meno o che segno, diciamo, le andrebbe bene? Ma guardi, noi abbiamo fatto i nostri programmi di tenere i volumi e di tenere il fatturato. L'abbiamo fatto però preparandoci bene, e in due parole lo dico come. Prima di tutto rendendoci più efficienti, risparmiando dove possiamo risparmiare, in ogni punto della vigna, della cantina, della distribuzione. Abbiamo messo sul mercato diversi prodotti che noi riteniamo più giusti al momento di mercato, e stiamo assumendo persone sul mercato, per cui siamo in controtendenza da quella parte. Quindi, diciamo, un po' meno prodotto e più mercato per essere più attivi di altri, quantomeno di altri della nostra concorrenza italiana straniera. Allora, andando avanti in questo giro che parte dai grandissimi volumi, con diverse poi tipologie di prodotto, andando su volumi leggermente più piccoli, anche lì però con gamme abbastanza variate, la Marchese Antinori fattura 138 milioni più o meno, forse qualcosa di più, 139 milioni di euro. Tra l'altro lei, Piero Antinori, ha ricevuto il Lifetime Achievement Award nel 2008 a New York, se non ricordo male. No, 2009. 2009, scusi, a New York, ci mancherebbe. Premio riconoscimento della rivista americana Wine Enthusiast, e complimenti, però grazie. Le domande restano le stesse del dottor Pedron. E quindi è un 2008 che in qualche modo rende che falsa l'analisi e la visione di quello che potrebbe essere il 2009, e dove state registrando le maggiori sofferenze, dove invece c'è una tenuta o in alcuni casi addirittura anche una crescita. Sì, guardi, la situazione credo che sia un po' simile per tutti. Io personalmente penso che il consumo del vino in generale non diminuirà, come non è sostanzialmente diminuito, e non credo che diminuirà anche in futuro. Magari ci sarà uno spostamento di fascia di prezzo da quello più alto a quello immediatamente più basso, quello può darsi che si sia già verificato, e probabilmente si verificherà anche nel corso del 2009. Credo che soprattutto il consumatore, per il nostro prodotto in generale, ma anche per tutti gli altri prodotti, sarà molto molto più attento al rapporto fra qualità-prezzo, cioè i prezzi di fantasia che non corrispondono a una reale qualità del prodotto probabilmente soffriranno di più. Mentre invece chi ha sempre fatto e continuerà a fare un prodotto che ha una qualità e un prezzo che sono in proporzione, diciamo, che non c'è una sproporzione fra l'uno e l'altro, molto probabilmente non soffriranno più di tanto. Io credo che il dato positivo, noi siamo abituati a ragionare nel lungo periodo, questo è un periodo certamente un po' difficile, il turismo soffrirà, se soffre il turismo soffriranno anche certi consumi. Giustamente, come diceva l'amico Pedron, si sposteranno anche i momenti del consumo, più a casa propria magari che al ristorante. Ci sarà questo tipo di cambiamento in questo periodo, ma non credo che poi alla lunga ci saranno veramente dei grossi traumi. Certamente chi ha puntato e continua a puntare sulla qualità, sull'efficienza, perché bisogna anche prendere i lati positivi di questi momenti di crisi, questi ci obbligano a diventare sempre più efficienti per essere anche più competitivi. Il nostro è un mondo estremamente competitivo a livello mondiale, e quindi bisogna essere più efficienti e più competitivi, il che significa produrre sempre una qualità sempre migliore, e allo stesso tempo anche cercare di ridurre i costi finché questo è possibile, senza compromettere la qualità e anzi agevolando poi il miglioramento della qualità. Quindi questa è un po' la situazione in generale. Io nel lungo periodo non sono assolutamente pessimista, si tratta in questo periodo così di non farsi certamente prendere dal panico, rimboccarsi le maniche e prendere anche i lati positivi da quella che è una situazione certamente non facile. Ecco, Marchese Antinori, però noi abbiamo visto, lo diceva anche la nostra scheda, che finché la crisi non era esplosa nella sua parte più virulenta, i numeri complessivi aggregati dell'esportazione di vino italiano hanno andato molto bene nei paesi emergenti. Citavo prima il caso dell'Arabia Saudita, ma non solo, la Russia, Hong Kong, Allora vorrei capire anche nel suo caso se c'è qualche area geografica e quindi geoeconomica che sta tenendo un po' meglio, oppure se invece si è arrivati a una parte così, diciamo, estesa e quasi omogenea della crisi, per cui Sì, capisco benissimo. Dunque, in effetti la crisi è mondiale, cioè una crisi globale. Credo che nessuno si è veramente salvato da questa crisi. Molti hanno parlato della crisi del vino italiano negli Stati Uniti. Per quanto ci riguarda, questa è una considerazione assolutamente personale, devo dire che gli Stati Uniti continuano a andare bene. Riteniamo che gli Stati Uniti continui a essere un mercato prioritario su cui investire anche da un punto di vista così della promozione dei nostri prodotti. Sappiamo che il consumo in generale del vino negli Stati Uniti continua a aumentare, noi riteniamo che in futuro aumenterà ancora di più. E quindi così, anche se il momento può non essere particolarmente positivo in generale, devo dire che per noi continua questo mercato a essere prioritario. È un mercato su cui investiamo sia da un punto di vista degli investimenti promozionali, pubblicitari e quant'altro, anche in risorse umane, anche come presenza personale nostra. Noi continuiamo a crederci. Naturalmente ci sono degli altri paesi emergenti che hanno attirato la nostra attenzione e anche i nostri investimenti negli ultimi tempi. Si faceva cenno alla Russia, certamente è uno dei mercati che ha negli ultimi tempi mostrato segnali più positivi di crescita. In questo momento la Russia è anche in crisi, crediamo che comunque poi, passata la bufera, ricomincerà nel suo trend positivo. Per noi c'è stata una flessione in questi mercati, che però ancora rappresentano una percentuale abbastanza piccola nei confronti della totale esportazione dei vini italiani all'estero. Quindi anche una diminuzione di questi mercati, che hanno più o meno tenuto, però non incide sostanzialmente sulla totale esportazione dei vini italiani. Continua il nostro giro, per cui dai volumi, mi riferisco chiaramente non alla qualità, non mi permetterei mai di mettervi, diciamo, in una graduatoria della qualità, ognuno decida quello che vuole, ma mi riferisco chiaramente ai volumi di bottiglie prodotte. Jacopo Biondisanti, lei tra le bottiglie ne produce anche nella zona di Scansano, quante sono le bottiglie, i milioni di bottiglie che producete all'anno? Ma circa 500.000. 500.000 bottiglie, quindi passiamo da un livello come quello del gruppo Italiano Vini, che mette assieme, va detto, diversi produttori, di 74 milioni a quelli di Antinori, a una cifra invece sicuramente più limitata. Questo era per capire però se, al di là della scala, come si direbbe in altri settori, i problemi restino simili oppure dimensioni più piccole permettano anche, un po' come nella vela, manovre più leggere. Beh, noi i dati del 2008 devo dire sono stati positivi, nel senso che abbiamo avuto una flessione all'estero, e questo è innegabile, soprattutto nei paesi come ha detto prima l'amico Piero, la Russia, che ha avuto una grossissima crisi negli ultimi 4-5 mesi, gli Stati Uniti un pochino di flessione l'ha avuta, l'Inghilterra che ha avuto una bella flessione, però e per fortuna abbiamo aumentato in Italia, per cui abbiamo fatto un più 40% sull'Italia e abbiamo un po' riequilibrato, dati 2008. Abbiamo riequilibrato i nostri fatturati per i vini nostri, chiaramente sono di fascia medio-alta, perché partono da una base di 10 euro fino poi ai 200, 300, 500, 800 euro a bottiglia, per cui... E parliamo sempre di prezzo di vendita, per cui va moltiplicato prezzo cantina, prezzo cantina, per cui sono vini difficili da collocare, sono vini che oggi magari soffrono. Certo, essendo l'azienda piccola, riusciamo forse con un giardinetto un pochino più ampio ad affrontando mercati dove non eravamo, o mercati nuovi, o consolidando qualcosa in altri mercati, a mantenere più o meno i fatturati. Certo, sicuramente la crisi si sente, però io penso che da questo Vinitaly, da quello che ho visto perlomeno in questi due giorni, il fattore è sicuramente positivo. Cioè... C'è una grossa affluenza di gente, nonostante che il Green Italy sia cresciuto e abbiamo aumentato i padiglioni. L'affluenza è per ora è di operatori importanti che sono venuti, che hanno assaggiato, si sono interessati, hanno fatto anche contratti, per cui un segnale positivo c'è, ecco, non guardiamo solo quello che è il negativo, ma il segnale c'è veramente. Noi ce lo auguriamo questo, lo auguro chiaramente a tutti e tre, nel senso che l'importante poi è anche tenere botta, importante quanto voi ricordavate sulle diverse fasce in cui si opera, in cui si va a esportare il vino, visto che qui parliamo di difficoltà, come avete anche voi raccontato, soprattutto sui mercati esteri. Dopo intanto ringrazio Piero Antinori da un lato, il dottor Pedron, quindi Antinori della Marchesa Antinori, Pedron del gruppo Italiano Vini e Jacopo Biondisanti della Biondisanti. Dopo il metro, la pubblicità, parleremo invece con il direttore della Fiera di Verona, quindi chi organizza il Vinitaly, perché i numeri del Vinitaly, come già ricordavamo, sono numeri buoni, sia come affluenza degli esteri, quindi i buyer stranieri, sia come numero di paesi partecipanti. Quasi 37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal Vinitaly, dalla Fiera del Vino, 43esima edizione. Volete sapere dove siamo? Siamo nell'area C, stand 12, e come suggeriscono giustamente dalla regia, nell'area, diciamo, dell'olio, così siamo neutrali e non prendiamo parte con nessun produttore, zona Confagricoltura. Allora, I mercati hanno chiuso bene. Ino, Milano più 0,5% l'S&P MIB, invariato il MIBTEL, ma insomma si veniva da una giornata di forti rialzi. Parigi meno 1,1, Londra meno 2,5 e Francoforte invariata. Enel la peggiore meno 3,5 e invece la migliore oggi è Prismian più 8,20, molto forte Unicredit più 7,5, Pirelli più 5,6, Mediaset più 4,5, Geox più 4. Di nuovo forte oggi, anche se non con il record di ieri, Fiat più 1,8%, nessun realizzo sul titolo, quindi il mercato crede all'effetto Chrysler e da un lato e immatricolazioni, incentivi auto a livello europeo dall'altro. È forte l'euro a 1,34,5 nei confronti del dollaro, invece è normale nei confronti della sterlina a 90 pence. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiudiamo questo approfondimento sul settore del vino, che ripeto significa 8 miliardi di euro di giro d'affari, 3 miliardi e mezzo di esportazioni, non vi parlo poi degli addetti e del numero dei produttori, perché stiamo parlando di 700.000 aziende per 1.200.000 addetti, quindi alla faccia del diletto, è un vero settore economico a tutti gli effetti, lo dico a chi scrive. E vorrei capire come mai in una situazione in cui prima Antinori, Pedron, Biondisanti ci dicevano, ma stiamo a vedere come va questo 2009, invece la Fiera di Verona può già festeggiare. I dati della partecipazione al Vinitaly sono numeri da record, superati per la prima volta quanto partecipanti a presenze i 4.250 espositori, di cui 300 dall'estero, 29 paesi, due paesi in più, la New Entry, la Nuova Zelanda, 11 produttori, e poi è tornato il Portogallo. Direttore generale della Fiera di Verona, Giovanni Mantovani, buonasera. Buonasera. Abbiamo sentito gli ospiti precedentemente dire Vinitaly resta una vetrina importantissima, non solo e non tanto per gli accordi commerciali quanto per esserci. In effetti voi, come organizzatori, avete superato per la prima volta la soglia dei 4.250 espositori, quindi più alta dell'anno scorso, di cui 3.950 dall'Italia e il resto da degli altri paesi, 29 paesi, per quello che riguarda quindi 300 espositori internazionali. Per la prima volta c'è la Nuova Zelanda con 11 produttori ed è tornato il Portogallo. Detta così, sembrerebbe che tra il 50% in più di adesione dei buyer esteri e il 20% degli italiani, che i vinitali la crisi, quanto a fiera, quanto a manifestazione, non la sentono. Beh, la fiera non ha nessun dato in controtendenza, anzi direi che tutti gli indicatori sono in crescita, è in crescita il numero degli espositori, soprattutto stanno crescendo gli espositori internazionali. Oggi possiamo dire, oggi siamo a venerdì, quindi sono due giorni di lavoro per le aziende, siamo a un più 5% medio di incremento degli operatori internazionali presenti e questo per noi è un dato molto molto importante. Direi che è anche un effetto molto positivo del Vinitaly World Tour. E quindi del vostro, si direbbe in altri settori, roadshow in giro per il mondo, Russia, America, anche Cina, a mostrare, a raccontare e promuovere il Vinitaly. Dottor Mantovani, al di là insomma della soddisfazione delle frasi di rito, ma lei come se la spiega il fatto che con un settore che è in difficoltà, e lo dicevano anche come tutti i settori, non più di altri, ma insomma, soffre sui prezzi, sui volumi e quindi probabilmente anche sul fatturato, anche il settore del vino, l'area dollaro, sappiamo come è messa, la Russia e la rest Europa sta soffrendo moltissimo, pure dall'Asia arriva qualche frenata, ecco lei come se lo spiega che siano aumentate le adesioni dei buyers esteri e anche italiani? Me la spiego con un fatto abbastanza semplice dal mio punto di vista, che Vinitaly è diventato veramente, come dire, la piattaforma, l'hub di confronto per il vino a livello mondiale e quindi il sentiment di questa manifestazione oggi è un sentiment positivo sul futuro. E non tutti gli indicatori sono ancora coerenti, anzi sul mercato segniamo qualche meno. Il 2008 si è chiuso direi in linea con il passato e questo è un dato molto buono. Oggi sul primo trimestre c'è qualche meno, meno 6, meno 5, meno 7 a seconda della fonte. Cresciamo ancora in valore come mercato, come vino italiano e questo è un dato che segnala, se incrociato, che c'è una grande attenzione alla qualità. Quindi il consumatore magari beve un po' meno, ma beve scegliendo un buon rapporto qualità-prezzo. E questo oggi credo che sia il grande plus del vino italiano ed è uno dei plus sui quali possiamo fondare un outlook positivo per i prossimi mesi. Si tratta per le aziende di lavorare molto, ma ho l'impressione che lo stiano facendo quotidianamente con grande attenzione sulle leve del marketing, delle relazioni, del non mollare sui mercati, uso questa espressione, perché poi magari di fronte alla prima difficoltà la tentazione di dire è fatica, invece la crisi può anche essere una grossa opportunità per costruire basi migliori per il futuro. Complimenti anche perché quest'anno c'è anche l'appuntamento tedesco del ProWine a Düsseldorf e quello francese del Wine Expo a Bordeaux e quindi avere questi numeri, lo dico senza nessun tipo di, diciamo, di piaggeria, avere questi numeri con due importantissime manifestazioni in coincidenza quest'anno, perché Bordeaux è biennale, non è male. Secondo lei forse la forza del Vinitaly non è anche che ormai sia diventato, lo dico senza voler sminuire il ruolo di luogo d'affari, ma un grandissimo show più che semplicemente la presentazione o l'incontro tra un buyer e un venditore? Noi abbiamo fatto una scelta per qualche verso in controtendenza assoluta rispetto alle grandi manifestazioni del vino. Negli anni passati tutti hanno scelto di fare fiere dedicate al mondo del vino esclusivamente professionali. Noi abbiamo scelto di fare una fiera altamente professionale perché Vinitaly oggi ha circa 100.000 visitatori ogni anno che sono dei professionisti del settore, però è anche una manifestazione che ogni anno dà modo a 30-40.000 appassionati, wine lovers, come vengono detti oggi un po' con un termine di tendenza, che possono incontrare in questo mondo, possono parlare con le aziende e questo credo che in una fase come questa sia un vero e proprio plus. Quindi una scelta voluta, una scelta per avere accanto al business anche il contatto diretto con il consumatore. Le aziende lo apprezzano molto, le aziende lo hanno capito, le aziende si sono anche attrezzate per affrontare la domenica, quella domenica in cui tutti gli stand sono invasi da questo appassionato del vino e si sono attrezzate per offrire a tutti la possibilità di conoscere nuove tendenze, nuovi vini, nuovi gusti in questo variegato mondo sempre più creativo e sempre più innovativo. In una battuta concludendo, quanti visitatori vi attendete? Ma noi pensiamo che saremo intorno ai 150.000, non ci aspettiamo grandi impennate rispetto allo storico, perché questo, come dire, è il volume di visitatori che noi programmiamo e ci attendiamo la tenuta di questo dato sull'estero, che è un dato veramente il dato più significativo, cioè che nel contesto dei visitatori ci sia una percentuale di operatori esteri maggiore. Grazie al direttore generale di Verona Fiere, Giovanni Mantovani. Grazie a voi e buona serata. Buona serata sicuramente, ma intanto avanti la diretta. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi la borsa e poi gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, a partire chiaramente da alcune dichiarazioni che stanno arrivando post G20, c'è l'Ecofin, Eurogruppo e poi Ecofin, ma anche c'è la Svizzera che si ribella a essere messa nella lista grigia, ma anche questo dato sulle dichiarazioni dei redditi del 2007, ripeto senza demagogia, però un italiano su tre ha dichiarato di guadagnare meno di 10.000 euro lordi l'anno. Di nuovo in diretta per la seconda parte della prima ora di Focus Economia. Allora, le borse. Oggi c'era chi si attendeva forti realizzi dopo la buona giornata di ieri, invece, per fortuna, così non è stato, o meglio, non è stato così a Milano, perché Londra ha perso il 2,3, Parigi l'1,1, Francoforte invariata, Milano tra le migliori in assoluto, più 0,5 l'S&P MIB. L'America adesso perde uno 0,3% sul Dow Jones, invariato il Mibtel. I titoli, allora, per quello che riguarda Prismian è il migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione, l'8,2% di rialzo, Unicredit più 7,5%, Pirelli dicevamo più 5,6%, Mediaset più 4,5%, Geox più 4%, Buzzi Unicem più 3,90%, Ubibanca più 2,90%, ST Microelectronics più 2,7%, CIR più 2,5%, Italcementi più 2%, Impregilo più 2% e Fiat più 1,80%. L'1,6% lo guadagna Intesa San Paolo. Come sempre commento con Radio Core Il Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo da Unicredito, perché notizie ci sono, poi andiamo anche agli altri titoli. Esatto, oggi i riflettori erano accesi su Unicredit in quanto si è svolto l'incontro tra gli enti per mettersi d'accordo sui nomi per la candidatura per i membri del CDA. E la borsa scommette comunque che ci sia accordo tra le fondazioni, anche alla luce del fatto che questa mattina Paolo Biasi, presidente della Fondazione Verona, si è recato in Unicredit e quindi ha continuato a premiare le azioni di Unicredit con questo balzo di cui hai fatto menzione tu. E peraltro va detto che da inizio mese le azioni di Unicredit hanno inanellato quasi un rialzo dietro l'altro, facendo più 30%, mentre hanno guadagnato oltre il 100% dai minimi toccati lo scorso 6 marzo. E ancora, per quello, no, c'è un ascoltatore che mi dice, io un mese fa le avevo scritto che l'ottimismo si sentiva già nell'aria, lei mi aveva deriso. No, se ricordo bene quell'SMS avevamo detto, sorridendo, ci dica dove abita, perché obiettivamente non vedevamo nessun segnale di borsa positivo. Dopodiché siamo tutti contenti, A, che lei avesse ragione, B, che la borsa abbia recuperato, lo dico a Stefano che scrive da Brescia e fa il direttore di Bank, e ci auguriamo anche che non sia così un recupero di primavera per poi sell in May and go away, come dicono in inglese, vendi a maggio e vai in vacanza e vattene via. Andiamo avanti con i titoli. Fiat tiene dopo il 27% di ieri, porta a casa un altro punto e mezzo percentuale. Esatto, grande attenzione su Fiat. Tra l'altro anche oggi gli scambi sono stati consistenti, 92 milioni di pezzi scambiati, non quanto ieri, comunque si tratta dell'8,4% del capitale ordinario. L'attenzione quindi rimane elevata, anche perché si attende nei prossimi giorni che venga definito l'accordo con Chrysler. Del resto Fiat e Chrysler dal lunedì avevano 30 giorni di tempo per definire i dettagli dell'accordo. Andiamo avanti con i titoli. Pirelli, continua il progresso della Pirelli, che oggi è un progresso anche significativo, nel senso che, come ricordavamo, bene sono andati non solo Pirelli ma anche altri titoli. Vorrei, oltre che Pirelli, vorrei anche che tu ci commentassi Prismian, che comunque resta il miglior titolo della seduta tra quelli maggiore capitalizzazione. Sì, guarda, Pirelli, diciamo che dopo l'esploit delle ultime sedute registrato da Fiat, gli investitori si sono concentrati un po' su tutti quelli che sono i titoli ciclici, tant'è che sono andati a comprare Pirelli, che ovviamente è legata a doppio filo al settore dell'auto. Sono andate bene comunque anche tutte le azioni del comparto pneumatico. Michelin nei giorni scorsi ha registrato rialzi consistenti, anche oggi ha fatto più 4,8%, ma se andate ad acquistare anche altre azioni appunto di società molto legate al ciclo, come ad esempio Prismian più 8,2%, che peraltro è stata premiata anche perché oggi ha annunciato di aver vinto una commessa in Russia del valore di circa 20 milioni di euro. E queste sono sempre cose che il mercato dovrebbe guardare con attenzione. Diciamo di Pirelli più 5,58, alcuni di voi vogliono sapere anche il prezzo finale con cui è chiuso Pirelli, e alla fine siamo a 20 centesimi di euro, con un'apertura a 19. Ancora andiamo avanti, altri. Buzzi Unicem bene, più 3,87%. Ebbene anche oggi il Banco Popolare, andava parecchio bene durante la giornata, poi è un po' ritracciato, ma il Banco Popolare ha fatto un più 40% in tre sedute, o sbaglio? In poche sedute, esatto. Il mercato continua a apprezzare il fatto che sia stato pulito completamente il bilancio, sono state fatte svalutazioni molto consistenti, ma d'altra parte non esistono più, diciamo, crediti a rischio, crediti incagliati, quindi cioè, il mercato ha apprezzato questa pulizia di bilancio, e peraltro continua a scommettere sulle parole rilasciate peraltro dal consigliere delegato al Sole 24 Ore nei giorni scorsi, da Saviotti, parole con le quali appunto Saviotti ha aperto la porta alla possibilità che sia distribuita una cedola. Ovviamente questo dipenderà dall'andamento dell'intero esercizio. Ancora tra i titoli invece in flessione oggi alcuni energetici, e mi riferisco soprattutto ad Enel meno 3,5%, Eni meno 3,1%, Snam meno 2,40% e anche A2A meno 1,6%. Sì, guarda, questo rientra un po' in un contesto di rotazione settoriale che è avvenuto non solo a Piazza Affari ma peraltro anche in tutta Europa. Basti pensare che il sottoindice del comparto petrolifero ha accusato in tutta Europa un ribasso del 2,16% e quello delle utilities praticamente del 2%, e quindi, come dicevo prima, si è andati a vendere appunto utilities e azioni petrolifere per comprare invece azioni cicliche e qualche bancario. Ancora tra i titoli diamo sempre i migliori e i peggiori, e così sia anche oggi. SEAT, pagine gialle sul risparmio, più 40%, poi cose molto sottili, Indesit più 16, Gemina sull'ordinario più 11,6. Tra chi più è calato invece, investimenti e sviluppo meno 7,1, Cell Therapeutics meno 5,8 e poco altro, Beghelli meno 4,31%. Grazie Eleonora Micheli, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colli Sole 24 Ore. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Siamo sempre in diretta dal Vinitaly, 43esima edizione, ma adesso non ci occupiamo più di vino. Ne abbiamo parlato ampiamente nella prima parte, poi abbiamo fatto i mercati finanziari con la buona giornata di borsa complessivamente, e adesso dicevo gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Ricordavamo i dati americani sui disoccupati, persi 663.000 posti di lavoro nel mese di marzo in America. In America sta perdendo una media di più di 500.000 di posti di lavoro al mese, tant'è che da quando è iniziata questa crisi finanziaria ed economica negli Stati Uniti, e cioè dalla fine del 2007, in America hanno perso il lavoro 5 milioni e 100 mila persone. È l'emorragia di posti di lavoro peggiore dal dopoguerra. Tant'è che il tasso di disoccupazione americano è salito all'8,5%, e anche il magnate, il tycoon, come si chiamava una volta, dei media, Rupert Murdoch, proprietario di News Corp e quindi di Sky, oggi ha dichiarato, anzi l'ha fatto ieri in nottata, la situazione è molto pericolosa, sono pessimista. A Praga la due giorni dei ministri finanziari europei con i governatori delle banche centrali dell'Unione Europea per il vertice Ecofin, faranno un primo bilancio della riunione del G20 di Londra, preparano anche i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario il prossimo 25-26 aprile a Washington, prima l'Eurogruppo e poi allargato anche agli altri paesi dell'area che non hanno l'euro come moneta. E qualche reazione c'è già, nel senso che la lista grigia, ossia la lista di quei paesi paradiso fiscale ma che hanno accettato standard fiscali internazionali ma non li hanno ancora applicati o li applicano solo in parte, in questa lista è stata inserita anche la Svizzera, che ha detto di disapprovare i criteri in base a cui è finita in questa lista grigia dei paradisi fiscali. Prendono atto della decisione gli svizzeri ma deplorano il modo di procedere. Dopodiché anche la Svizzera facesse un po' di esame di coscienza sulla celerità con cui ha risposto alle richieste europee in tema di segreto bancario, ma non solo. La lista nera invece, chi proprio non ne vuole sapere di, nemmeno di dare un impegno di massima sugli standard fiscali internazionali, comprende Costa Rica, Malesia, Filippine, Uruguay, ma la lista grigia è bella lunga, va dalla A di Andorra, Antigua, e poi la B di Barbados, Bahamas, Bermuda, Belize, Bahrain, e si finisce con appunto la Svizzera, Singapore, ma non solo, Panama, Antille Olandesi, Grenada, insomma c'è di tutto, oltre che alle famosissime Cayman e Liechtenstein, e anche San Marino e anche l'Austria. Adesso, dice invece il Presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, è il momento di agire subito per far tornare la fiducia sui mercati, ma non solo, ma poco dopo il Commissario Europeo agli Affari Economici e Monetari, Joaquín Almunia, dice a maggio andremo verso una revisione al ribasso della crescita europea. L'Eurogruppo, che come ricordavamo si è riunito a Praga, ha detto che la situazione più preoccupante nell'area euro riguarda l'Irlanda, addirittura ha parlato di situazione grave il presidente dei ministri dell'area euro, ossia Jean-Claude Juncker, spiegando che Dublino ha già annunciato misure supplementari per far fronte a una recessione senza precedenti e un deficit, quello irlandese, che rischia di finire del tutto fuori controllo. I commenti, le reazioni al G20 che si è concluso ieri sono arrivati anche dall'Italia. Il direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta, margine di una cerimonia in cui si celebravano i 10 anni dell'euro. Ma io credo che ognuno sta facendo quello che è necessario fare in relazione alle proprie esigenze, alle proprie situazioni di partenza, come finanza pubblica, debito pubblico. Poi insomma queste decisioni del G20 sono molto positive, insomma, e quindi questo faciliterà il processo di aggiustamento. E sempre al microfono il nostro Vincenzo Miglietta, il direttore generale della Banca d'Italia. Saccomanni ha anche ricordato il ruolo svolto dall'euro. Non ne parliamo spesso, ma in effetti andrebbe ricordato che perlomeno con questa crisi epocale l'euro, da valuta forte qual è, ha protetto i risparmi degli italiani. Non oso pensare cosa sarebbe successo se avessimo avuto la lira in questo periodo. Questo lo dico a chi qualche anno fa polemizzava sull'euro, vorrei sentire anche un po' di mea culpa ogni tanto, ma non me li attendo. Saccomanni sul ruolo dell'euro. Se non ci fosse l'euro, la situazione delle monete europee sarebbe di grande divaricazione, avremmo malgrado la recessione saremmo stati obbligati a tenere i tassi di interesse molto alti, invece vedete sono quasi arrivati a livelli minimi, insomma, quindi questo alle volte si fa fatica a far capire questo messaggio alla gente che abbiamo creato un qualche cosa che ha anche delle implicazioni pratiche per la gente di tutti i giorni, insomma, quindi questa è la crisi peggiore che potesse capitare e tutto sommato siamo riusciti a navigare con una moneta forte, con una moneta che è ritenuta stabile. E critico invece sull'esito del G20, Stephen Roach, che è il presidente di Morgan Stanley Asia, uno degli economisti più ascoltati, e anche lui qualche previsione l'ha sbagliata, ma comunque uno di quelli che non ha sbagliato così tanto in questi ultimi anni. Stephen Roach, dicevo, critico sul G20, ne ha parlato con il nostro Simone Spezia oggi a Villa d'Este a margine del workshop Ambrosetti. Mr. Roach, ci sembra di capire che lei non veda alcun segnale di ripresa. No, that's not true. I see some tentative signs. No, non è vero. Vedo qualche tenue segnale che il peggio della contrazione globale sia alle spalle, ma penso che avremo un difficile processo di approdo alla fine. E più precisamente, non avremo una classica, vigorosa ripresa nel mondo. Sarà una ripresa inusualmente debole e ci lascerà parlare degli shock da dopo crisi per molti anni a venire. Ogni recessione che ho attraversato ha un inizio, un fondo e una fine. Ognuna ha un carattere differente dall'altra e la ripresa in questo caso sarà molto difficile. I think this one's going to be a very difficult recovery. Insomma, sta parlando del fatto che la crisi avrà una coda molto lunga. Yeah, I think we'll be bouncing around the bottom for a year and sì, penso che rimbalzeremo intorno al fondo di questa crisi per anni. Il vero problema è che non avremo la scintilla dal lato della domanda, perché il maggior consumatore del mondo, gli Stati Uniti, è corso troppo avanti e va verso un periodo di significativo consolidamento di eccesso di debito e basso livello di depositi, e il fatto che molta spesa era supportata da una bolla che poi è scoppiata. Ed il G20 che si è svolto ieri cosa pensa? Pensa che abbia fatto abbastanza? Non c'è andato nemmeno vicino. È stato un grande show, ma non ha affrontato i maggiori problemi del mondo in questo momento, ossia l'accrescersi degli squilibri globali. Finché non lo farà, rimarrò critico. Until they did that, I remained very critical of the effort. In effetti qualche critica al G20 è arrivata, c'è chi ha parlato di turismo politico, non di altro, per quello che riguarda il G20. No, interessante quanto diceva Stephen Roach sulla crisi, allora qui bisogna capirsi. Le borse, vedremo se questo rimbalzo continuerà. E speriamo che invece verso maggio-giugno non arrivi di nuovo una gelata come temono altri, ma insomma le borse stanno conoscendo una stabilizzazione, anche alcuni segnali che riceviamo da vari operatori, banche, impieghi, imprese, sono di un leggero miglioramento e qualche segnale positivo. Attenzione però, con Conte dire che si è fermata la deriva, il rotolamento, la discesa, e per cui almeno si è fermata e lentamente si va a recuperare qualcosa, un conto è dire che si ripartirà, cioè che questa crisi va alla forma di una V. Da quello che capiamo, purtroppo questa crisi potrebbe avere la forma di una L, cioè si va giù, poi non si continua a scendere, ma si resta, diciamo, a un livello di plafond, a un livello basso per lungo tempo. È quello che teme Stephen Roach, e noi ci limitiamo molto modestamente a ricordare che se l'America ha già tirato fuori tra i 3 e i 4 mila miliardi di dollari tra garanzie e quant'altro, questo fa deficit e poi queste cose andranno ripagate prima o poi. Ne sappiamo qualcosa noi in Italia, perché con il deficit e il debito abbiamo costruito anche la ricchezza degli anni 70 e 80, adesso però la stiamo pagando da più di un decennio, quindi attenzione alla coda di questa crisi. Il giudizio non tanto sul G20 quanto sul ruolo delle banche verso le imprese lo ha dato sempre dal workshop Ambrosetti a Cernobbio Corrado Passera, amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, il quale ha detto: Intesa San Paolo è pronta a sostenere le imprese però siano pronte a investire. se oggi siamo nella crisi mondiale che stiamo affrontando è perché in alcune parti del mondo non sono state seguite le regole dell'affidamento del credito corretto. Certamente abbiamo pressione da parte di criteri di calcolo del capitale come Basilea 2 che certamente non aiutano in un momento di ciclo negativo, anzi sono un po' prociclici. Detto questo, tante banche, sicuramente noi compresi, hanno il coraggio di fare credito a quelle aziende che hanno il coraggio di fare investimenti, di continuare a crescere. Certo, c'è anche domanda di cattivo credito e quello dobbiamo a tutti i costi cercare di trasformarlo in buon credito o se no non farlo, perché inseguire cattivo credito sarebbe un indebolimento dell'intero sistema. E qualche istante fa il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi da Praga, dove si sta riunendo appunto l'Eurogruppo e poi Ecofin con i banchieri centrali, ha detto testualmente: ci sono segnali di un rallentamento del deterioramento. E questo ricordo alcuni giorni fa ci trovavamo Churchill durante la battaglia d'Inghilterra, non so se sia l'inizio della fine, ma sicuramente la fine dell'inizio. Un po' un calembour, però segnali di rallentamento del deterioramento, quindi rallenta il modo in cui si sta deteriorando l'economia. Altra cosa è dire che ci siano segnali veri e propri di ripresa. E 21 minuti. Allora, mi raccomando, lo dico a chi sta già scrivendo da un'ora, evitiamo la demagogia. Allora, questo è un paese che è soffocato per alcuni versi dall'evasione fiscale e qui non c'entra sempre la solita logica, ma le tasse sono troppo alte. Non c'entra perché chi ha il reddito, il prelievo alla fonte, cioè tutti i lavoratori dipendenti, privati o pubblici, non mi interessa. Aliquote troppo alte, sicuramente abbiamo la tassazione molto alta, è una delle più alte in Europa, però le tasse le pagano. In questo periodo poi dove mancano le risorse varrebbe la pena anche scommettere un po' di più sulla lotta all'evasione, perché si stima che oscilli tra i 100 e i 200 miliardi. Ora basterebbe portarla a un livello francese in cui la Francia stima un'evasione fiscale tra i 40 e i 60 miliardi, cioè già recuperare 40 miliardi, voglio dire, sarebbe grasso che cola. Eppure, dichiarazione 2007, metà delle società italiane sono in rosso e va bene, tra l'altro soprattutto al sud, ma quello che ancora lascia più perplessi è un altro dato: il reddito medio è stato di 18.324 euro lordi, reddito medio degli italiani, e le dichiarazioni 2007 sono chiaramente riferite a quanto incassato nel 2006. Il reddito complessivo è aumentato del 5,7% e vabbè, la cosa che balza agli occhi è che il 35% dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore ai 10.000 euro lordi l'anno, più di uno su tre. Poi ci sono il 58% che guadagnano dichiarano tra 10.000 e 40.000 euro lordi l'anno, parliamo di 23 milioni e mezzo di contribuenti su 40 milioni, e quindi diciamo che sopra i 70 mila euro lordi l'anno ci sono solo il 2% degli italiani, 800 mila contribuenti, perché praticamente 15 milioni hanno meno di 15 milioni hanno meno di 10 mila euro l'anno, altri 23 milioni ne hanno tra 10.000 e 40.000 e sono solo 800.000 contribuenti che hanno sopra i 70.000 euro lordi. Se poi guardiamo chi dichiara di guadagnare oltre 100.000 euro lordi l'anno, scendiamo a 350.000 contribuenti. Sopra i 200.000 euro lordi solo lo 0,17%, 68.000 persone. Allora, usiamo spesso un raffronto che dice più di tante analisi: se ci sono solo 350.000 contribuenti, diciamo sopra i 200.000 lordi, che inizia a essere uno stipendio da fascia molto alta, se sopra i 200.000 euro lordi ci sono solo 68.000 persone, abbiamo difficoltà a capire come mai ci siano 65.000 barche sopra i 17 metri in Italia, praticamente una per ognuno, ma voglio dire, 200.000 euro lordi, se non inizia a avere una famiglia numerosa, non sono nemmeno uno stipendio da barca sopra di 60 metri. E soprattutto come sia stato possibile immatricolare 200.000 auto di lusso di grande cilindrata nel 2006, se appunto sono auto che costano sui 70-80.000 euro, dubito che uno che ne dichiara 100.000 euro lordi l'anno possa spendere 70.000 per l'auto. Chiaramente qualcosa non torna. Salvatore Padula del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Non so, non c'è molto da commentare. Diciamo una cosa, è migliore, visto che quello era un periodo a cavallo tra penultimo governo Berlusconi e ultimo governo Prodi, l'effetto Visco, qualcosa si è mosso oppure no? Ma insomma, è molto difficile capire, anzi direi che i dati ci dicono che probabilmente non si è mosso nulla, però in fondo a me viene in mente un'altra considerazione, diciamo abbastanza triste e amara. Però insomma, come al solito, io leggendo queste statistiche ho la sensazione che ne emerga una fotografia non dell'Italia che paga le tasse, ma dell'Italia che non paga le tasse. Quindi l'analisi delle dichiarazioni dei redditi, paradossalmente, ci fa più, ci attrae di più, perché in qualche modo ci fa capire veramente che cosa significa, no, cosa significano tutti quei discorsi legati a queste cifre enormi di evasione fiscale che non si riesce a intercettare, 100 miliardi di imponibile, 150 miliardi di imponibile. Ecco, questi dati qui secondo me dicono esattamente questo, cioè non è la fotografia di quanto pagano gli italiani, è purtroppo la fotografia di quanto moltissimi italiani non pagano. Purtroppo dobbiamo senza retorica e senza insomma, però dobbiamo riconoscere questa cosa, cioè in Italia la struttura del sistema fiscale consente ad ampie fasce di contribuenti che sono, insomma, senza offesa per nessuno, perché poi insomma gli onesti ovviamente sono in tutte le categorie, però insomma dagli imprenditori individuali, i professionisti, abbiamo sentito anche le società, insomma, se è vero che la metà circa non dichiara reddito imponibile, insomma qualche domanda ce la dobbiamo fare. Comunque consente a tutti questi soggetti di dribblare più o meno facilmente gli obblighi tributari, o quantomeno di, insomma, in qualche modo di addomesticarli, no? In modo da rendere il peso fiscale meno oppressivo. Diventa una sorta di fai da te del fisco, di fai da te delle aliquote, cioè io pago quello che posso, peggio quello che voglio, no? Quindi per quello poi quando diciamo ma le tasse insomma si aumentano, e purtroppo sì, poi quando aumentano ricadono drammaticamente sui soliti noti, cioè sulle persone che già le pagano e che evidentemente non possono, sì, non possono evadere. Con un effetto distorcente anche all'opposto, cioè quando tu provi a fare in questo paese ripartire la domanda interna abbassando la pressione fiscale, in realtà con questi livelli di evasione ottieni poco, perché quando uno evade il 70 e voglia abbassare di un punto, due punti, tanto quello comunque non è da lì che decide che tipo di consumi adottare. D'accordo, diciamo colpisce, e tu l'hai giustamente sottolineato, anche il dato, ovviamente colpisce molto il dato della fascia alta, cioè solo 60 e tanti mila che stanno sopra i 200.000 euro. A me ha colpito anche molto il dato sulla fascia bassa, cioè uno su tre sta sotto i 10.000 euro, che è un dato insomma impressionante, un dato che certamente dobbiamo insomma leggere, magari anche incrociandolo, e qui in fondo qualche conferma la potremmo trovare, incrociandolo con i dati ISTAT sulla povertà, che recentemente hanno stimato circa 9 milioni di soggetti che vivono, di contribuenti, di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, e quindi diciamo anche certo, al di sotto di questi 800.000 euro. Quindi la mia sensazione è che verso il basso, cioè se stiamo verso il basso, queste statistiche in qualche modo sono forse rappresentative della realtà, verso ma l'alto, quando verso l'alto assolutamente sono no. Ridicole. No, sono d'accordissimo con te, Salvatore Padula, ripeto, nessuna demagogia, ma insomma è anche giusto ricordare poi quando si chiedono sforzi al paese che c'è una parte del paese che gli sforzi non li fa praticamente mai. Grazie Salvatore Padula, grazie a Davide Cioccia, Filippo Reggi per l'assistenza tecnica qui dal Vinitaly di Verona, dagli studi di Radio 24, a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.